Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, ci troviamo negli uffici di Monte Citorio di Scelta Civica e con noi il capogruppo Andrea Romano. Buon pomeriggio onorevole Romano. Buon pomeriggio a lei e ai nostri ascoltatori. Da qualche giorno si ha l'impressione come se Scelta Civica si fosse un po' risvegliata, si dava un po' per scontato che fosse all'interno della maggioranza e del governo, senza mai protestare, cercando sì di fare il bene dell'Italia in questo governo, di unità nazionale, di larghe intese, adesso di più piccole intese. E invece avete addirittura minacciato di uscire dalla maggioranza per la TASI, la tassa, ricordiamo, sulla casa. La tassa poi dei servizi che i comuni devono erogare. La ringrazio, ma effettivamente Scelta Civica non si era mai addormentata. È vero però che dopo alcune tribolazioni legate al fatto di essere una forza politica nuova e quindi un po' tormentata, come spesso succede, da qualche settimana in realtà abbiamo recuperato la nostra voce e anche una chiarezza sui nostri obiettivi. In questo caso, molto serenamente, noi siamo una forza che davvero vuole sostenere il governo Letta e questa maggioranza. E sostenerlo lealmente vuol dire anche sottolineare le cose che non funzionano, come è nel caso della tassazione sulla casa. Non lo diciamo noi che non funziona la tassazione sulla casa, lo dicono gli italiani. Siamo arrivati a uno scenario tra il ridicolo e il catastrofico. Gli italiani non sanno più quando e quanto dovranno pagare sulla casa, non lo sanno i proprietari, non lo sanno gli inquilini. Siamo arrivati a una situazione nella quale il bene, come dire, sul quale ci dovrebbe essere la maggiore sicurezza, appunto la casa nella quale si vive, è un oggetto di un'incertezza totale sulla fiscalità. Allora, noi già da tempo dicemmo che Letta aveva sbagliato ad abolire integralmente l'IMU, come tra l'altro gli aveva chiesto Berlusconi. Ricordiamolo, Berlusconi aveva detto: o si abolisce l'IMU o esco dalla maggioranza. Berlusconi è uscito dalla maggioranza e però l'errore è stato fatto. Ora diciamo noi che si tratta di cambiare metodo e di affrontare diversamente questo argomento. Il metodo, sinceramente, che si è seguito fino ad oggi è stato un metodo catastrofico. Ci sono state 40 correzioni diverse alla fiscalità sulla casa. È una situazione non da paese normale. Noi quello che diciamo al governo è: il governo abbia il coraggio di tirare una linea, dire che fin qui evidentemente si è fatto male. Da domani si apra un tavolo al quale devono essere seduti non soltanto i partiti politici, ma anche gli enti locali, tutti coloro che sono coinvolti nella questione casa e tassazione sulla casa. Si prenda questo tavolo il tempo necessario, che noi riteniamo essere anche un mese, non ci vuole un anno. Di qui a un mese però si definisca una volta per tutte com'è la situazione sulla fiscalità sulla casa, e gli italiani dovranno sapere quanto e quando dovranno pagare. In questa settimana voi avete anche incontrato il premier Enrico Letta. Ieri c'è stato l'incontro tra Renzi e Letta e sembra che le cose un pochino si mettano in modo più positivo. Voi avete chiesto un tavolo con tutte le forze politiche, non rischiate poi, diciamo così, che finisca a male parole, in cui volano sedie, in cui tutti quanti hanno delle opinioni discordanti su tutto? No, crediamo di no, perché come in tutte le organizzazioni, come dire, bisogna dirsi le cose con grande franchezza e trasparenza l'uno con l'altro. Tra l'altro non siamo tanti partiti, non siamo 20 partiti, 4, 5 partiti che sostengono questo governo. È giusto che dopo incontri bilaterali come quelli che Letta sta facendo in questi giorni, che sono iniziati appunto con Scelta Civica martedì scorso, il processo di rilancio del governo si concluda in un modo tale che tutte le forze politiche insieme al Presidente del Consiglio sottoscrivano un nuovo patto, e noi sottolineiamo anche una nuova squadra di governo, perché questo è un governo nella conformazione attuale che è nato in un momento molto, diciamo, distante da quello che accade oggi. Sembra quasi un'altra era geologica. Ricordiamolo, c'era ancora il PDL, c'era ancora Epifani segretario del PD. Nel frattempo, in questi mesi, è successo di tutto ed è giusto che il governo ne prenda atto, che Letta riparta. Noi vogliamo davvero che Letta vada avanti anche oltre il 2015, ma perché questo succede, Letta deve prendere in mano la situazione, ci permettiamo di dire, con un po' più di energia di quanto non abbia fatto fino ad ora, scrivere insieme ai partiti che lo sostengono un nuovo patto di coalizione e anche fare degli aggiustamenti al governo. Qualunque squadra, come dire, di lavoro ha bisogno di correzioni. Dopo un po' ci sono figure, non faccio nomi naturalmente, ma non perché non ne voglio fare, ma perché non è il problema di questo o di quel ministro. Mauro, sulla difesa, Mauro, il dissidente. No, il problema di Mauro è un altro, non è tanto, non voglio dire se fa bene o male il ministro della difesa, quello è un altro discorso. Il problema di Mauro è che Mauro è stato eletto in Parlamento, come dire, dicendo agli elettori che sarebbe stato un parlamentare di Scelta Civica, e oggi non è più un parlamentare di Scelta Civica, è anche un ministro della Repubblica. Come dire, è stato eletto e ha avuto, mi pare, ha avuto anche larghe soddisfazioni successivamente alle elezioni. Io se fossi Mauro mi porrei un problema di coscienza, come dire, sono stato coerente, non sono stato coerente, però lo lascio alla coscienza di Mauro decidere cosa fare appunto della sua coerenza. Il punto invece che mi preme sottolineare è come ridare, restituire al governo energia, lucidità, capacità di governare bene il paese, perché questo serve agli italiani e noi come forza di maggioranza vogliamo che il governo vada avanti meglio di quanto è accaduto fino ad ora. Appunto, ripetiamo, con correzioni sia nella squadra che nel programma. Il caso della Tasi, che lei citava poco fa, è un caso specifico, è evidente che è successo qualcosa che non ha funzionato, qualcosa non ha funzionato nel modo in cui si è affrontato il tema della fiscalità della casa. Allora, è evidente che dobbiamo anche qui introdurre delle correzioni, in modo tale che gli italiani abbiano dal governo un'azione più trasparente e più coerente. Ecco, però sul rimpasto, perché questo poi in gergo tecnico, no, si chiama rimpasto, Matteo Renzi ha già detto di no, e Matteo Renzi è l'azionista di maggioranza del partito del Premier. Sì, diciamo, Renzi e poi vari altri esponenti del PD fanno un po' i superiori, se mi permette la battuta. A noi le poltrone non interessano, il rimpasto è una vecchia parola, come dire, se mostrano una sorta di distacco zen dal governo. In realtà, per carità, non è che le poltrone, qualcuno che è attaccato alla poltrona, noi per esempio di poltrone non ne abbiamo, quindi non ne siamo particolarmente affezionati, però poi uno si deve prendere anche le responsabilità del caso. Cioè, se un partito sostiene un governo, è anche giusto che abbia i suoi uomini in quel governo, perché è un po' troppo facile dire sì, io sostengo il governo, ma però non sono interessato a farne parte. Insomma, come in tutte le cose umane, se uno dice ci sto, ci deve stare davvero con tutti e due i piedi, prendendosi tutta la responsabilità e i rischi del caso. L'incontro di ieri tra Renzi e Letta mi pare che abbia dato un messaggio in questa direzione, no? Insomma, Renzi è un energico segretario del Partito Democratico ed è anche giusto che faccia notare la novità della sua responsabilità, anche con una grandissima capacità comunicativa. Aggiungo anche spesso mostrando ottime idee, talmente ottime che spesso sono le idee di Scelta Civica. Nel caso del Jobs Act, per esempio, molte dei capitoli di questa iniziativa, a mio parere molto meritoria di Renzi, sono idee che noi avevamo già detto. Ne faccio due esempi concreti. La riduzione dell'IRAP in cambio della diminuzione degli incentivi, noi lo abbiamo detto in campagna elettorale, l'IRAP, come sanno i nostri ascoltatori, è una tassa particolarmente antipatica, perché tutte le tasse sono antipatiche, ma questa lo è in particolare, perché scoraggia le imprese a fare nuove assunzioni. Allora, noi abbiamo detto in campagna elettorale, quindi non ieri, si tolga, non si può abolire l'IRAP, perfetto, ma almeno si tolga il monte stipendi dall'IRAP in modo tale da renderla meno onerosa per quelle aziende che vogliono assumere. Questo si può fare in cambio di una riduzione degli incentivi alle imprese. Un tempo si chiamava Piano Giavazzi, ce lo ricordiamo. Questa è un'idea che troviamo nel Jobs Act. Siamo contenti che questa nostra idea sia stata presa dal PD, non siamo gelosi delle nostre idee. Un altro esempio, il contratto a tempo indeterminato per tutti i nuovi assunti a tutele crescenti. Questa proposta non è soltanto di Scelta Civica, ma anche un nome e un cognome, Pietro Ichino, l'ha inventata lui ed è stato il punto centrale, rimane il punto centrale delle nostre proposte sul lavoro. Il Partito Democratico, nel caso di Matteo Renzi, a parte il Jobs Act, ha anche fatto 3 proposte per la legge elettorale. La Camera questa settimana, i capigruppo hanno deciso, quindi anche lei, avete deciso, che la discussione finalmente partirà il 27 gennaio. Il problema è questo: ce la farete? Perché questa cosa della legge elettorale, che ricordiamo ai nostri radioascoltatori, è una legge ordinaria, quindi è abbastanza veloce da fare, ce la farete a farla? E qual è il modello preferito da Scelta Civica? Il modello preferito da Scelta Civica, lo abbiamo detto e ripetuto, e abbiamo anche depositato una proposta di legge, è il modello cosiddetto Mattarellum col doppio turno di coalizione. Cosa vuol dire tradotto in parole comprensibili? Vuol dire introdurre in Italia una grande innovazione come il doppio turno. Non si è mai avuto in Italia un voto nazionale col doppio turno. Questo tutela il bipolarismo, perché il bipolarismo, nonostante tutto il male che se ne può pensare, è qualcosa a cui gli italiani sono abituati, è un elemento di normalità del nostro paese. Cioè, gli italiani devono sapere la sera del voto se ha vinto questo o quell'altro schieramento. Al contempo il doppio turno permette anche di rispettare un tratto caratteristico della politica italiana, ovvero l'articolazione un po' di varie forze politiche. Noi non siamo né l'Inghilterra, né gli Stati Uniti, né la Spagna, non abbiamo due soli partiti. Tra l'altro in Gran Bretagna, la patria del bipartitismo, anche quel modello è in crisi, tanto che il governo che c'è ora in Gran Bretagna è un governo di coalizione tra conservatori e liberali. Quindi il doppio turno permette agli italiani di votare al primo turno anche per partiti non grandi, però al secondo turno ci sono delle coalizioni che prendono un impegno preciso. Quindi il nostro modello è quello, Mattarello ma a doppio turno. Allora, parliamo invece di quello che sta succedendo in Piemonte, perché addirittura il TAR ha detto che bisogna rifare le elezioni, perché c'erano queste liste dei pensionati per quota che erano inficiate, almeno questo è il parere del TAR, di firme false. Che cosa ne pensa Scelta Civica? Bisogna rifare le elezioni in Piemonte? Dobbiamo, come dire, rispettare il verdetto del TAR. Evidentemente il TAR ha fatto tutte le verifiche del caso e se ci sono state firme false è giusto che gli elettori piemontesi tornino al voto, perché francamente il risultato di quelle elezioni in cui venne eletto Cota è stato evidentemente un risultato falsato dalla presenza di firme false. Tutti i partiti politici hanno l'onere di raccogliere le firme, noi l'abbiamo fatto. Se un partito ha fatto il furbo è giusto che quel partito sia penalizzato. Poi sento dire adesso che Cota pretende di andare avanti lo stesso, non può andare avanti lo stesso, quindi è giusto che se c'è questa sentenza del TAR gli elettori piemontesi tornino al voto. Sui Marò c'è stato, sembra, no? Questo avverte un po' il normale cittadino, lo scambio tra motivi economici e motivi invece giudiziari. Cioè la storia delle commesse degli elicotteri famosi che l'India poi tra le altre cose ha bloccato, prodotti da Finmeccanica, hanno impedito poi di far sì che questi Marò, quando sono venuti a fare la loro licenza, rimanessero in Italia. È un po' un pasticcio. Sì, ora io non so se la spiegazione sia questa, per carità, è un'ipotesi che, come dire, è un'ipotesi che legittima, ci mancherebbe altro. Io preferisco pensare che la diplomazia italiana continui a essere impegnata, come deve essere impegnata, per, come dire, trovare una soluzione equa sia nei confronti delle famiglie dei pescatori indiani che hanno subito appunto questo lutto, sia nei confronti dei nostri due soldati che devono tornare in Italia il più presto possibile. Parliamo adesso sui diritti civili. Si parla di dare il cognome della madre, se è possibile, quello che ne pensa Scelta Civica, e poi si parla anche di matrimoni gay. Ah no, mi sembra questa del cognome, mi sembra un'innovazione che comunque, come dire, avvicina l'Italia ad altri paesi europei, se posso dirlo. Tra l'altro io ho due cugini, fratelli di mia, i figli della sorella di mia mamma, che avevano il cognome della mamma perché per le loro vicende familiari, quindi io sono anche quasi, come dire, abituato a questa cosa, non mi è mai sembrata una stranezza e mi sembra anche importante che in Italia si possa fare. Sul tema delle unioni civili, che è un tema naturalmente più delicato e più spinoso, la posizione di Scelta Civica è chiara: noi siamo una forza che vuole l'europeizzazione dell'Italia sotto tutti i punti di vista, compreso il tema dei diritti civili. L'Italia è distante dall'Europa per quanto riguarda la tutela da dare alle nuove famiglie, perché di questo si tratta. Tra l'altro Scelta Civica ha una proposta di legge molto chiara su questo punto: siamo a favore delle unioni civili che tutelino le coppie, come dire, stabili, composte da figure dello stesso sesso, così come succede nelle coppie eterosessuali. Un'ultimissima cosa, ma alle elezioni europee il capolista sarà Mario Monti? Questo naturalmente non glielo dirò, e va chiesto a Mario Monti, il quale come dire, dopodiché le forme nelle quali Monti vorrà continuare a, diciamo, essere protagonista della politica italiana le dovrà scegliere Monti. Quello che le dico è che lui continua ad essere non solo il nostro padre nobile, ma anche colui che ispira concretamente, mi viene da dire quotidianamente, nei nostri contatti quotidiani, l'attività politica e parlamentare di Scelta Civica. Ringraziamo allora Andrea Romano, capogruppo di Scelta Civica qui a Montecitorio. Io vi do appuntamento come al solito a sabato prossimo.